L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 7 minuti dopo le 12 in diretta con l'altra Europa, come ogni settimana, per raccontarvi l'Europa delle storie, l'Europa delle opportunità e delle possibilità. E Federico Taddia, mi trovate sui social, su Twitter e su Facebook, le nostre bacheche virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che toccheremo, oppure radio24.it, il nostro sito, lì potrete trovare tutti i contributi extra, da lì potrete poi scaricare il podcast. Anche oggi tante voci, tanti ospiti in questa giornata particolare, si ricorda Kohl, il presidente tedesco che ha voluto la caduta del muro, che ha voluto la riunificazione delle due Germanie, un passo importante per questa Europa, che cammina, e cerchiamo noi di narrare questo percorso complicato, con tanti punti critici, ma per fortuna con tante opportunità. Ogni settimana un viaggio, il viaggio di oggi con cui partiamo è un viaggio spaziale. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. La politica spaziale per l'integrazione dell'Unione Europea, questo è il titolo di un importante convegno che si è tenuto il 14 e 15 giugno a Roma, proprio in occasione del 60° anniversario della firma dei trattati di Roma. Tanti ospiti, tante voci, tanti punti di vista per raccontare proprio come là, da dove non si vedono i confini, ce l'hanno detto tante volte gli astronauti, ce l'ha detto Samantha Cristoforetti, e insomma ci ha raccontato che la cosa bella quando sei lassù a bordo della stazione orbitante, guardi giù, guardi questa Europa, ecco, i confini non li vedi, vedi un disegno unico, quindi una bella metafora dell'Europa unita. Ma al di là della metafora, lo sappiamo che l'ambito scientifica è un ambito di fortissima contaminazione culturale, no? Si va davvero oltre i confini. E le politiche spaziali sono un fiore all'occhiello della nostra Unione Europea. Abbiamo il piacere di avere con noi oggi qui all'Altra Europa Roberto Battistone, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, scienziato e anche ottimo divulgatore scientifico. Buongiorno Battistone, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Allora, una due giorni importante dove avete riflettuto proprio sulle politiche spaziali relative all'Unione Europea. Quanto l'Europa deve allo spazio? Deve molto, e soprattutto deve molto se consideriamo che è praticamente da 15 anni che l'Europa della Commissione Europea si occupa di spazio, perché è dal Trattato di Lisbona agli inizi degli anni 2000 che l'argomento dello spazio, l'utilizzo dello spazio come opportunità per costruire infrastrutture di uso economico, sociale per l'intera Europa è stato approvato, e in questi 15 anni abbiamo fatto dei grandissimi passi avanti, creando appunto l'infrastruttura tipo Galileo per la navigazione satellitare, che fra pochi anni rimpiazzerà in modo invisibile ma efficace il GPS per tutti quanti gli europei, e il Copernicus, il grande programma di osservazione della Terra, che già sta facendo moltissimo, fornendo dati utili per la modellizzazione climatica e la definizione degli obiettivi che si devono seguire per poter portare un intervento positivo per ridurre l'effetto del cambiamento climatico. Certo. Sono due esempi che in 15 anni hanno portato l'Europa ad altissimi risultati della politica spaziale. Naturalmente non dimentichiamoci che l'Europa dello spazio preesiste quella politica con l'Agenzia Spaziale Europea, che ha sviluppato in questi 50 anni moltissime iniziative importanti, però adesso l'Europa della politica, l'Europa della società, l'Europa dell'economia sta aggiungendosi all'Europa della scienza e della ricerca con risultati assolutamente significativi. Riescono a parlarsi queste varie Europe? Ma si devono parlare, è la stessa Europa, sono gli stessi paesi membri, sono gli stessi obiettivi. E chiaramente queste cose richiedono un po' di aggiustamenti, di rodaggi, di discussione, ma intorno agli stessi tavoli siedono di fatto le stesse persone, quindi è una questione di fare quegli atti anche di carattere politico, strategico, che permettano a tutti questi elementi di allinearsi, lavorare assieme. Certo. Battiston, si parla di investimenti ingenti, di cui appunto conosciamo quelli che sono un po' le imprese più note, anche quelle che ci ha citato, le ricadute, ci sono ricadute nella nostra quotidianità, ci sono ricadute in indotto lavorativo, tantissimi ricercatori, tantissime ricercatrici. Tutto ciò lo si riesce a narrare, cioè si riesce a comunicare ai cittadini quanto lo spazio sia quotidianità? Ma naturalmente questo è l'obiettivo delle agenzie spaziali nazionali, dell'Agenzia Spaziale Europea e adesso anche della Commissione. Quindi si cerca di fare, si fa, naturalmente è più facile quando ci sono meno voci molto efficaci di quando ce ne sono molte voci magari più piccole e meno visibili, ma si fa, ricordiamo un numero che può essere facilmente ricordabile da tutti. Noi abbiamo nella Commissione europea circa 500 milioni di persone che abitano e vivono nei vari paesi. Bene, l'investimento totale, annuale, nello spazio, diciamo, è dell'ordine di una pizza a testa dedicata al settore spaziale. Stiamo parlando di 10-20 euro che sono investiti, ma i rintorni di questo investimento sono incredibili. Ripeto, il poter viaggiare nel traffico conoscendo in anticipo dove sono i blocchi e quali sono le strade più rapidamente da seguire, oppure semplicemente orientarsi, ha un valore nel quotidiano per centinaia di milioni di persone talmente grande che se per un istante ci troviamo col telefonino scarico sappiamo benissimo come siamo in difficoltà. Oppure poter intervenire in modo scientifico rigoroso sui modelli climatici per anticipare fenomeni globali e definire le politiche, le strategie di intervento per ridurre l'impronta dell'uomo sul clima è un valore che supera enormemente l'investimento fatto. Dobbiamo ragionare su grandi numeri, ma anche i guadagni sono numeri molto grandi. Tantissimi progetti, tantissime missioni in atto. C'è un programma più degli altri che può essere metafora di quello che ci aspetta nei prossimi anni? Ma guardiamo anche questo dal punto di vista, diciamo, del contributo nazionale. L'Italia è una filiera spaziale di tutto rispetto. Con la realizzazione del lanciatore Vega, che ha già fatto 9 lanci e si sta avviando a una strada di successo, l'Italia ha dato un contributo molto importante alla Commissione, all'attività dell'Agenzia Spaziale Europea per fornire il lanciatore che sarà usato sempre di più per lanciare i satelliti della Commissione Europea. Stiamo pensando nella prossima decade di avere 15 lanci del Vega dedicati a satelliti della Commissione Europea, un numero importante su cui l'Italia quindi gioca un ruolo importante. Poi un altro settore in cui l'Italia sta investendo molto, perché è lì che sta evolvendosi il mondo dello spazio, sono i piccoli satelliti di alta tecnologia. Realizzare con tanti satelliti di basso costo e di alta tecnologia quello che oggi si fa con pochi satelliti di grandi dimensioni e di tecnologie che chiaramente stanno evolvendosi nel tempo. Questo è un settore che cambierà molto lo spazio di oggi, permetterà un ruolo sempre più importante per i lanciatori di medie dimensioni che sono in grado di lanciare tanti satelliti, e il Vega è fra questi, e apre delle prospettive finora, diciamo, non sfruttate, per esempio la possibilità di una utilizzazione di costellazioni molto grandi, anche di centinaia, qualcuno ipotizza 1000 satelliti, per fornire non solo la navigazione come oggi abbiamo grazie alla trentina di satelliti GPS o la trentina di satelliti di Galileo, ma anche la telecomunicazione, quindi le comunicazioni internet e telefoniche in tutto il mondo a prezzi molto contenuti, e anche l'osservazione della Terra in tempo reale. Oggi un satellite passa sullo stesso posto ogni molte ore, ogni qualche giorno, un domani avremo un monitoraggio in tempo reale, questo ulteriormente cambierà il modo con cui usiamo l'informazione spaziale. Grazie a Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, www.asi.it, il portale per tutte le informazioni. Buon sabato Battiston, grazie. Buongiorno a voi, buon weekend. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando e poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. And there's a ghost, ghost. Una tipico info day, quello per raccontare Europa creativa e le tante possibilità, le tante opportunità, in questo caso soprattutto in campo musicale. È il Creative Europe Party, si terrà il 22 giugno qui a Milano in occasione dell'apertura di Arezzo Wave Love Festival. Una giornata appunto per capire, intanto ricordare che cos'è Europa creativa e fare proprio fare un po' il punto su quelle che sono le possibilità, le strategie, le vie anche per accedere ai finanziamenti messi a disposizione. Di tutto ciò ne parliamo con Marzia Santone, Project Officer del Creative Europe Desk Italia. Buongiorno Marzia, bentornata all'Altra Europa. Buongiorno a voi. E poi diamo il benvenuto anche a Katia Giampaolo, che è co-direttore dell'Estragon di Bologna. Buongiorno ciao. Katia. Ciao. Che sarà protagonista anche lei di questa giornata, proprio per parlare di un progetto Europa Vox che adesso andremo a conoscere. Allora Marzia, che cosa sarà questa giornata? Allora, che cosa faremo? Innanzitutto è una giornata nata da una telefonata con Mauro Valenti, direttore artistico del Festival Arezzo Wave. Mi ha detto, perché non facciamo qualcosa insieme? Allora abbiamo deciso di fare un party, quindi un info day poco formale dedicato agli operatori del settore musicale, perché la musica è importante per Europa creativa. È importante perché dopo diversi anni la Commissione europea si è resa conto che non c'è uno schema di finanziamento per il settore, no? Europa Creativa è formata anche da media, c'è un grande programma per l'audiovisivo che copre tutta la filiera del mercato audiovisivo, invece per la musica non c'è niente. Si può applicare magari a degli schemi, però non ci sono schemi automatici, non so, sulla produzione, sulla distribuzione. E quindi dalla fine del 2015 la Commissione ha aperto un dialogo con gli stakeholder, perché funziona così Europa, bisogna prima indagare e capire quali sono le esigenze a livello transnazionale. Sì. Quindi ha aperto il dialogo con gli stakeholder, in particolare con una grande piattaforma sulla musica emergente che si chiama Live Europe, che è a Bruxelles. Quindi da allora ci sono state diverse tappe, l'Eurosonic, il Macan, e quindi stanno costruendo questa strategia che si chiama Music Moves Europe, che serve proprio a disegnare il nuovo programma che partirà dal 2020. Infatti non sappiamo ovviamente cosa succederà in effetti, perché c'è tutto un procedimento, però molto probabilmente il direttore dell'ACEA ha detto che forse potremmo avere un media per la musica. E quindi nel senso è un momento molto importante, anche una rivoluzione, no, nei programmi europei, perché non c'è stato nel settore culturale. Certo. E quindi introdurrò un po' questa strategia e parlerò poi del meccanismo classico, i progetti di cooperazione. E ci sarà Katia che presenterà un bel progetto sulla musica contemporanea. Che adesso andiamo a conoscere. Intanto segnatevi l'agenda, l'appuntamento è a Milano dalle 18.30 alle 22.30 presso l'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, cultura.cedesc.beniculturali.it come sempre per avere le informazioni sul Desk Italia. Katia, raccontaci invece che cos'è Europa Vox. Allora, Europa Vox è un progetto di internazionalizzazione delle band europee, è stato cofinanziato su larga scala dal programma di Europa Creativa dell'Unione Europea nel periodo 2016-2020. Sì. Nel 2016 sono stati 125 i progetti presentati, solo 15 approvati e solo uno approvato sulla musica contemporanea, appunto quello di Europa Vox. Coinvolge su 7 paesi, la Francia, appunto l'Italia con Estragon, la Croazia, l'Austria, la Lituania, il Belgio e la Grecia. Si tratta fondamentalmente di sviluppare le carriere delle band emergenti di alto profilo e dal potenziale internazionale fino a consolidarne lo status fuori confine. Ecco, stiamo parlando di band emergenti, quindi. Sì, emergenti, però questo non vuol dire che sono le prime armi, sono appunto già di alto profilo e quando hanno già dimostrato di avere un potenziale internazionale, quindi di essere esportabili. E come sempre immagino l'idea sia appunto quella di creare una rete tra situazioni in cui queste band possano... Questo infatti viene fatto attraverso una rete di scouting che non ha precedenti e questo grazie all'esperienza dei coaching che si sono messi a disposizione dai vari paesi e infine congiungendo i punti per disporre tra il coaching e lo scouting l'esportazione di queste band attraverso un circuito funzionale. Infatti i 7 paesi che fanno parte di Europa Vox ospiteranno 7 festival dedicati alla promozione e allo sviluppo sul territorio di riferimento. Certo. In più, giusto per non lasciare niente al caso, uno strumento inedito in Europa, come diceva Marzia prima, ed è il nostro fiore all'occhiello di questa avventura, è una piattaforma media B2B, quindi da professionisti per professionisti, per la consultazione e la divulgazione di tutto quello che è il nostro lavoro, alla scoperta di tutto ciò che si considera il meglio di ogni territorio europeo. Uh-huh. E questo è un sito fruibile sia ai normali utenti che ai professionisti, quindi manager, promoter, publisher, discografici, tutto quello che hanno desiderio di individuare i talenti del futuro. Il sito è europavox.com. Esatto, è proprio quello. Katia, ti chiedo una cosa, sì. Allora, sappiamo un po' come funzionano questi progetti che comunque appunto vengono portati, sono fondamentali perché mettono risorse a disposizione, ma assolutamente. Se non ci fosse stata Europa Creativa sarebbe mancato anche l'innesto creativo, nel senso voi l'idea l'avevate già e stavate cercando un modo per realizzarla? Sì, ok. Ti dico la verità, certo. Noi abbiamo lavorato su questo progetto prima di questa possibilità di accedere ai finanziamenti per almeno 6 anni. Okay. Abbiamo cercato una modalità per uscire ognuno dal proprio territorio, abbiamo fatto la submission per Europa Creativa appunto per cercare un partner anche che desse risonanza, perché al di là del finanziamento è importante anche la comunicazione che c'è dietro e quindi Europa Creativa in questo è molto molto brava, diciamo così. Perché è un po' questo, Marzia, vero? Cioè non ci sono solo fondi a disposizione, questi sono essenziali, però si cerca di avviare, attivare nuove creatività. Sì, assolutamente. Cioè, sicuramente il programma attuale dà chance di internazionalizzazione è fondamentale, però ovviamente serve qualcosa copre tutta quanta la filiera. Quello musicale è un mercato enorme, quindi sarebbe una grande perdita se non si ragionasse in questi termini. Però la scelta d'approccio di Katia è quello giusto per partecipare, no? Nel senso di partire sempre già da collegamenti, da una base solida, non ci si può improvvisare. Quindi, e poi ovviamente da inizio a qualcosa che continua e che è sostenibile. Quindi è una bella chance. Quindi speriamo che dal 2020 ci siano ancora più opportunità. Mi sono solo dimenticata di dire che comunque il party consiste anche in un aperitivo, c'è comunque la parte di showcase, saranno due artisti emergenti del festival Alessio Wave, Diana Marino e Midians, quindi concludiamo anche con un live e niente, è anche un modo per aprire il festival Alessio Wave che si chiama tempo, quindi sono molto emozionata e contenta. Arezzoway.com per conoscere poi il programma del festival. Un grazie a Marzia Santone, ricordiamo l'appuntamento martedì dalle 18.30 alle 22.30 all'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare qui a Milano. Andate con domande, come sempre, insomma, quelle proprio sono occasioni per andare a cercare proprio di portare chiarezza anche su punti oscuri che a volte ci sono, no? Quando si entrano nel burocratese, però serve anche quello. Grazie a Marta, grazie anche a Katia Giampaolo. Grazie a voi per l'occasione. Estragon.it, il sito dell'Estragon, europavox.com invece quello del progetto. Grazie, buon sabato. Noi adesso ci fermiamo, un euro post-it, un attimo di pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Figli dell'Europa al Festival Internazionale del Libro di Taormina. Anche quest'anno l'Agenzia Nazionale Giovani è partner di Taobook, il Festival Internazionale del Libro che si terrà dal 24 al 28 giugno a Taormina. Il filo rosso dell'edizione di quest'anno è il tema Padri e figli, e ANG organizza per il 26 giugno un incontro dal titolo Figli dell'Europa, incentrato sui 30 anni del programma Erasmus e sulle nuove generazioni figlie di un'Europa fatta di valori come libertà, solidarietà, integrazione e accoglienza. Informazioni e dettagli sul sito taobook.it. L'altra Europa. Signal in the distance, to whom it may concern. I think I lost my way, getting good at starting over every time. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia, Twitter e Facebook, le nostre pagine social, lì tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando. L'Europa, il percorso dell'Europa, l'Europa che cammina, l'Europa che si muove, la mobilità, tante parole che usiamo spesso qui all'altra Europa. Ora parleremo di due viaggi, uno a piedi e l'altro in bicicletta. Il primo è un viaggio particolare, un viaggio durato 12 settimane sul Cammino di Santiago da Torino a Finisterre, viaggio percorso da Enrico Brizzi, che ha raccontato in questo libro edito con Ponte alle Grazie intitolato Il sogno del drago. Un pellegrinaggio, un viaggio, un cammino. Enrico, cos'è stato? Ciao Federico. Ciao. È stato come tutti i viaggi a piedi, sono degli spostamenti fisici nello spazio, ma sono anche dei viaggi nel tempo, sono dei viaggi contro degli assalti che facciamo noi stessi contro le nostre paure e i nostri pregiudizi. Scopriamo sempre qualcosa di molto bello quando alla partenza siamo pieni di paure. Crediamo già di sapere che aspetto avranno certe regioni o quale sia la morale di gruppi di persone che in realtà non abbiamo mai conosciute, quindi sono sempre viaggi nella sorpresa. E naturalmente, per restare al tema, sono anche viaggi che hanno costituito questi itinerari, grandi itinerari sacri, come il viaggio verso Santiago, verso Roma, verso Gerusalemme, la colonna vertebrale dell'Europa, cioè il germoglio della consapevolezza di essere quello che oggi chiamiamo il vecchio continente, certo, che una volta consideravano cuore esclusivo del mondo. E questo lo si respira, cioè questa Europa nelle sue origini la si ritrova in queste vie, in questi itinerari. Sì. La si ritrova sicuramente dal punto di vista monumentale, cioè arrivi a, faccio il primo esempio che mi viene in mente, a Burgo, se ti trovi di fronte a una cattedrale che è stato uno dei manufatti più meravigliosi dell'Europa medievale, l'Italia ne è piena d'altronde. Ma si respira soprattutto che cosa significa camminare spalla a spalla, condividere la fatica e la meraviglia con altre persone simili a noi. L'Europa è fatta soprattutto di condivisione della medesima sorte. Troppe volte la sorte che gli europei si sono trovati a condividere ha coinciso con qualche guerra, ma i libri di storia lo ricordano con minore enfasi. Ma l'idea dell'Europa viene anche dal fatto che gli europei hanno camminato uno di fianco all'altro e gli italiani hanno conosciuto i britannici, i francesi, gli spagnoli o i tedeschi letteralmente facendo strada insieme. Certo. Gli obiettivi e la pazienza, no? Sono due elementi del camminatore, due elementi che tornano spesso anche nei tuoi racconti, due elementi che dovrebbero essere fondanti anche di questa Europa. Con chi hai camminato questa volta principalmente? Da solo, con persone che conoscevi, con gli incontri che hai fatto? Ho camminato, tutte e tre le tipologie, circa 3 settimane da solo, altrettante con conoscenze fatte lungo la via, poi in realtà quelle... Qui ero da solo, non è che stessi in un angolo a coprirmi la faccia, capito di incontrare un sacco di persone lungo la strada. E per circa metà del percorso invece con gli amici che camminano con me dell'associazione Psicoatleti. Ok. E il libro quando nasce? Cioè, mentalmente lo scrivi mentre cammini o materialmente lo scrivi lì o è un momento di rivisitazione poi quando... Sei coi piedi fermi. La scrittura va in due fasi, mentre quando si parla di viaggio a piedi. Concretamente ogni giorno al pomeriggio a fine tappa, che siano le 5:30, le 6, le 7, l'ordine delle operazioni è birra dell'arrivo, doccia e appunti. Quindi ne prendo un po' tutti i giorni e al di là di quello che scrivo conservo materiale, se trovo dei libri interessanti li porto dietro o li spedisco a caso, sono pesanti. E poi all'arrivo, quindi quando non hai più l'obbligo quotidiano, per così dire, il compito quotidiano di stare 7, 8, 10 ore per strada, se una storia ha l'urgenza di essere raccontata, il momento giusto per farlo è quello, appena sei tornato e le emozioni cominciano a fissarsi in qualcosa di più stabile e il ricordo è ancora vivo. Certo. Il sogno del drago, qual è questo sogno, Enrico? È un sogno che fa un po' paura, ma perché il sogno del drago è anche il sogno di tutte le nostre paure, le nostre insicurezze. Che il viandante, il pellegrino ha chiamato a vincere andando loro incontro, non scappando, dando le spalle, ma andandoci incontro senza paura, come si suol dire, la paura non aiuta a non morire. Il sogno del drago, Ponte alle Grasse. Prima di salutarti Enrico, scusa, ma devo farti una domanda che ti porta un po' indietro anche a te nel tempo. Andrai al concerto di Vasco Rossi? No, sono in vacanza con 4 figliole, quindi andrò a giocare a frisbee in spiaggia. Fantastico. Grazie davvero Enrico, complimenti per l'ottimo libro. Ciao Federico, buona giornata. Ciao a te, ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Europost-it. Borsa di studio, il tuo Erasmus con ESN. A tutti gli studenti che desiderano partire in Erasmus. Anche quest'anno ESN Italia è promotrice del progetto Borsa di studio, il tuo Erasmus con ESN. Il progetto si rivolge agli studenti iscritti presso i 52 Atenei italiani dove è presente Erasmus Student Network, assegnatari di una borsa di studio nell'ambito del programma Erasmus Plus, e mette in palio ulteriori contributi attraverso il concorso hashtag il tuo Erasmus con ESN. Nell'edizione 2017 saranno erogate 7 borse di studio del valore di 500 euro l'una. L'iniziativa è patrocinata dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire. Informazioni e modalità di iscrizione sul sito esnitalia.org. Here she comes in a suit and tie, shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate, I'll pick you up. Yes, it's a day. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Il mio cuore, il mio cuore per l'Europa, e questo è il nome di un progetto scelto da una ciclista ed esploratrice che proprio domani partirà da Roma per raggiungere in bicicletta Bruxelles e in questo modo celebrare, ricordare i 60 anni della firma dei trattati di Roma. Diamo il benvenuto alla protagonista di questa bella storia, Lucia Bruni. Ciao Lucia. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Hai preparato le borse, lo zaino? Quasi. Come sono quasi? Ancora in preparazione. Devo ancora misurare, ecco, la mole che andrà dentro le borse, ma spero che non sarà tale per cui... 19 giugno, 6 luglio, questo è più o meno il tempo che hai previsto. Oggi diamo un assaggio di questa partenza, ma poi ci ritroveremo sicuramente per, insomma, vorremmo seguirti anche in questa tua pedalata, certo, pedalata nella storia, pedalata nei simboli, pedalata anche fisica. Qual è esatto. l'itinerario che hai scelto? Allora, io parto da Roma, da Piazza del Campidoglio, che è il luogo dove proprio sono stati firmati, no, i trattati del 1957 che hanno completato la triade delle comunità europee iniziali, no? Certo. E quindi è proprio, diciamo, un inizio di questo viaggio, di questa avventura dell'integrazione europea. E passo per alcuni punti, diciamo, simbolici, sia perché ospitano istituzioni europee come Strasburgo, no, che ospita il Parlamento europeo ed altre, e Lussemburgo capitale, che ospita la Corte di Giustizia, ma anche attraverso le città che hanno ospitato la firma dei trattati come Maastricht e Amsterdam, per arrivare a Bruxelles, che è, diciamo, il centro, la capitale delle istituzioni europee. Certo, per fare questo passerò per il centro Italia fino a Bologna, che è anche la mia città, e attraverserò la regione passando per le località che sono state colpite dal sisma del 2012, come San Giovanni Persiceto, anche per sottolineare, no, il bel lavoro che è stato fatto di ricostruzione anche grazie ai fondi europei. Sì. E poi andrò verso il Brennero, quindi passando da Verona, Trento, Bolzano, fino al Brennero, che era un confine, no, anche piuttosto difficile, conflittuale per molto tempo, e che oggi non è più un confine, è un luogo di passaggio, di comunicazione. E poi dopo, appunto, punterò su Strasburgo, attraversando l'Austria e la Germania, soprattutto appunto il confine franco-tedesco, che era a sua volta, no, un luogo di competizione, di conflitto tra la Francia e la Germania per secoli, e che è diventato invece il luogo, no, di cooperazione e anche di innovazione sul verde, sull'ambiente. Quindi tenere insieme un po' questi elementi, sia quelli macro dei grandi obiettivi, dei grandi accordi come la libertà di circolazione, l'Erasmus, il roaming che è stato tolto in questi giorni, sia elementi, no, quotidiani che hanno toccato la vita delle persone, come la ricostruzione, il restauro. E per esempio, passando per il centro, certo, Italia, andrò a sottolineare Agreve in Chianti, un lavoro di restauro del letto di un fiume, no, che aveva prodotto delle esondazioni. Quindi, insomma, toccare proprio appunto il territorio, il cuore, i principi, mettere insieme, esatto, queste cose, è una sorta di dichiarazione, un atto d'amore anche il tuo, no? Che fai? Sì, infatti è nata questa idea qualche mese fa, quando appunto di amore per l'Europa non ce n'era tanto, per la verità, se ne sentiva poco, si sentiva molta insofferenza, molti atti d'accusa e magari anche giustificati, perché certamente ci sono degli elementi, certo, critici, degli elementi in cui si dovrebbe migliorare, però appunto per questo io ho pensato che fosse importante ricordare quello che di buono c'è stato, perché comunque gli obiettivi originari io credo sia molto importante ricordarli. E quelli della pace, no, della cooperazione, che hanno trasformato un continente molto bellicoso per secoli, ci siamo scannati in Europa per mille motivi, e da decenni questo non succede, siamo diventati, insomma, comunque un paese pacifico e prospero come pochi continenti. Assolutamente. Insomma, no. Ricordiamo il sito ilmiocuoreperleuropa.eu. Domani la partenza. Ci ritroveremo qui all'altra Europa per seguirti nella tua pedalata. Grazie Lucia. Mille. Ciao, buon viaggio. Ciao, ciao. Ciao, ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. La puntata di oggi d'Altra Europa la chiudiamo parlando di un progetto molto, molto particolare, che è quella di raccontare l'Europa attraverso i burattini, burattini che contengono la storia della stessa Europa. Ne parliamo con Mauro Sarzi, maestro burattinaio e animatore di questo importante progetto. Buongiorno Sarzi, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Un progetto importante perché lavorerete con dei burattini realizzati da Ernesto Rossi. Esatto, sì, realizzati in gioventù a Bologna, si era appassionato, aveva una mamma grandissima che gli ha permesso di costruirli e fare piccoli spettacoli con i suoi burattini. Quindi Ernesto Rossi, esatto, padre dell'Europa e attraverso i suoi burattini. Dove c'era Fagiolino, che è il personaggio più importante, che tocca tra l'Emilia Romagna, la Lombardia, tutti gli altri, i vari personaggi proprio del teatro dei burattini. Ma poi la cosa bellissima, lui costruì questo teatrino, ma lui continuò anche quando fu imprigionato eccetera a scrivere delle lettere firmandosi burattino, proprio facendo il disegno di un burattino per illudere un pochino anche quello che era la censura, e disegnando dei pupazzi, se vogliamo, dentro, che erano i personaggi con i quali lui viveva. Mm-hmm. Non so, Bauer, che era Bauer di Milano, fascista, che era in galera, eccetera, Foa, e così via. Quindi lui disegnava questi personaggi e ridendo scriveva una lettera alla settimana alla mamma. Fantastico. Ma e questi burattini esistono ancora, quindi sono stati conservati? Sì, sono stati conservati, anche perché c'è tutta una storia, nel senso che durante un periodo di dopo la guerra terribile, di miseria, eccetera, furono messi in vendita questi burattini in un grande negozio a Firenze. E praticamente Calamandrei venne a sapere che i burattini di Ernesto Rossi erano in vendita, li prese, li acquistò lui per poi ridarli alla famiglia. In questo momento sono a Vicchio, in un piccolo museo. E con la fondazione Salvemini e Ernesto Rossi abbiamo proprio pensato di fare questo progetto, far rivivere i burattini. Loro hanno pensato a me, in quanto io vengo da una storia legata alla mia famiglia, al fascismo, alla resistenza, cinque generazioni di burattinai, e io sono onorato con la mia famiglia di portare avanti questo progetto. E che storia racconterete? Allora, noi racconteremo una storia su due livelli. Le storie sono quelle di un livello per i ragazzi più grandi, per gli adulti, dove ci sono delle lettere, sono 8 lettere, queste di cui si parlava prima, con i disegni, con i pupazzi, molto grandi. Ci sarà un percorso, ci sarà appunto due persone, una potrebbe essere Frandinelli, che è uno storico, che accompagnerà, eccetera, e l'altra, c'è un'altra straordinaria, appunto, collega di Mimmo Frandinelli, che condurranno gli spettatori, che saranno 50, ma una volta presentata la prima lettera si illumineranno e i disegni di questi personaggi, di queste figure, prendono vita col Teatro delle Ombre. Quindi io ho ricostruito sul disegno originale, ingrandendo la figura, e quindi poi avranno la voce. Quindi il nostro burattino Ernesto, che è lì, che viene dalla Toscana, e dice: oh, insomma, o che tu fai, Foa, scappa, guarda, quello è un Foa, ma chi è questo Foa? Forse è una spia. Questo ne parlava Bauer, no? Quindi Bauer è milanese, anche lui dirà: ma sì, scappiamo, perché questa è una spia, perché mettevano anche delle spie. Questo sono il Teatro delle Ombre. Mentre con i bambini facciamo un percorso con burattini che costruiamo. Quindi sarà Ernesto Rossi, che ha fatto 9 anni di galera, che darà vita all'alter ego Fagiolino, che farà anche lui 9 anni di galera. Come però? Galera, messo in galera da solo, perché non voleva andare a riscuotere le tasse da questi contadini che avevano avuto una disgrazia con tempo terribile, freddo, eccetera, e il re vuole che vada a bastonare questi contadini. E Fagiolino torna e dice: no, re, non posso bastonare, sono lì alla fame, come faccio? Allora vai in galera, 9 anni in galera, lui si rapporta con i suoi piccoli animali che incontri in galera, che hanno accesso a uscire e entrare dalle sbarre, un topolino, un uccellino, un ragnetto, eccetera, e una formica, e parla di quelle che sono le disavventure terribili che sono nella vita. Ne parla Pasolino, ma ne parlano anche gli animali. Non so, le formiche raccontano a Pasolino che anche tra le formiche c'è una razza di formiche che prende altre formiche, le schiavizza, le rendono schiave. Ecco che allora i valori emergono e i bambini, attraverso, fin da piccoli, concepiscono questi valori, che poi erano i valori di un'Europa diversa, che volevano appunto dare con Rossi, con Spinelli e con Colorni, eccetera, in questo manifesto straordinario, che dovrebbero impararlo nelle scuole, e questo è un metodo che stiamo cercando di farlo qui con l'Università di Cagliari, con il Centro della Formazione, con i ragazzi. Insomma, un bel esperimento, no? Perché appunto mette, sì, mette in gioco valori antichi, testi antichi, un linguaggio anche antico, che però è ancora in grado di sorprendere, vero, i bambini. Incredibile, proprio così. Il Burattino non smetterà mai di stupirmi, questi lavoro ormai da tantissimo, mia figlia dà la continuità. Pensi che siamo ormai rimasti tra marionettisti, burattinai, pupari, siamo rimasti 9 famiglie in Italia che danno continuità con il nome. Siamo un po', saremo un pochino i panda, c'è anche una petizione all'UNESCO di proteggere famiglie. Sì, sì. Grazie davvero, complimenti Sarsi, sicuramente ci ritroveremo qui all'Altra Europa poi, quando insomma inaugurerete anche il tour, così certo, racconteremo il progetto. Grazie. Partiremo da Ventotene, vi inviteremo da Ventotene. Ma che bello. Arrivederci. Buon lavoro, buon sabato. Grazie. E con questa bella storia chiudiamo la puntata di oggi dell'Altra Europa. Un grazie a tutti voi come sempre per essere stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra, Andrea Roccabella oggi alla parte tecnica, Claudia Schiattone in assistenza, Miriam Lucchetti e Silvia Righini che con me hanno scritto la puntata. L'Altra Europa @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica se volete segnalarci progetti o iniziative. Vi ricordo che saremo insieme martedì dalle 21 alle 24 con la notte prima degli esami, insieme a me Marianne Mirage, 3 ore in diretta per raccontare come sempre le ore prima della prima prova, un sacco di ospiti, tanti personaggi famosi che racconteranno il loro esame di maturità. Quindi vi aspetto in diretta dalle 21 alle 24 di martedì sera. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa.